Yo! Pepe! Non è sale, ma è pepe! Pepe! Non è sale, ma è pepe! Pepe! Pepe! Pepe! Non è sale, ma è pepe! Pepe! Non è sale, ma è pepe! Nei campi di Grey si è ritrovato gay. Perché Andrea Poni così l'ha guardato agli schiei, gli ha rubato gli schiei. Andrea Poli è un ladro, sono andati a Sanremo assieme. Andrea Poli ha fatto un pupino al gioco così. Ma poi è arrivato Pepe e non è salito Pepe. Abusato il nonno, come ha abusato la mia casa, no? Ha abusato il nonno e ha fatto la sua casa nuova con un bellissimo balcone senza dichiarare lo stato, perché fa the system. Yeah, yeah, yeah, lui ha pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Io non dichiaro niente allo Stato, faccio tutte le case che voglio, perché io provengo da Sanremo. È proprio così, io vado a vedere il festival di Sanremo, sai? E quello che succede è che ogni giorno Pepe mi guarda, che topolona, che topolona, vorrei portarla sul mio terrazzo abusivo. Una veranda, la veranda, ti porto nella veranda con Pepe. Non è sale, ma Pepe, Pepe. Non è sale, ma Pepe. A Sanremo sono andato e mi ho inculato il mio prelato. A Sanremo sono andato, ho inculato il mio prelato. A Sanremo sono andato, ho inculato il mio prelato. A Sanremo sono andato, ho inculato il mio prelato. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o